Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Remo Pedon, legumi e cereali dal nord-est al mondo, di Alessandra Scaglioni. La nostra storia per quello che facciamo adesso, per il nostro core business che sono legumi e cereali, parte nel 1984. A livello comunque di prodotti alimentari e comunque di commercializzare prodotti alimentari, parte molto prima da nostro papà. Questo parte alla fine della seconda guerra nel 1946. Lui faceva, è partito come ambulante in bicicletta, come tante altre storie, e faceva l'ambulante di prodotti alimentari, per cui andava nei vari paesi a vendere prodotti alimentari. C'è l'attività del padre all'inizio della storia d'impresa che raccontiamo oggi, la storia del gruppo Pedon, leader europeo nel settore della produzione, confezionamento e vendita di legumi e cereali secchi. Sede a Molvena, Vicenza, fatturato di 90 milioni di euro, presente in 25 paesi del mondo. Ma tutto inizia appunto dal padre. Poi arrivano i tre fratelli, Franco, Sergio e Remo. Poi noi abbiamo iniziato l'attività, l'ingrosso di prodotti alimentari nel 1965, per poi aver iniziato l'attività che ci ha portato fino qui. Nel 1984 abbiamo cominciato a trattare legumi e cereali e da lì siamo partiti con il confezionamento e la distribuzione. Nel percorso che ha portato il gruppo al profilo attuale, alcune scelte. Prima tra tutte, quella di concentrare l'attività su una tipologia di prodotti specifica. Ma all'inizio eravamo nei primi anni Ottanta, c'era una grande trasformazione, si passava dai piccoli negozi alle prime catene di supermercati, che erano molto diversi rispetto ad adesso, molto più piccoli, per cui noi che facevamo prodotti alimentari all'ingrosso abbiamo cominciato a pensare che dovevamo modificare e cambiare la nostra attività per poter cominciare a servire le catene di supermercati. Avevamo per noi i legumi, noi siamo veneti, i legumi sono soprattutto i fagioli e sono usati molto, per cui era un prodotto che ci piaceva, era un prodotto che conoscevamo bene e abbiamo incominciato a pensare che quello poteva essere l'inizio di un nostro futuro. Gli inizi della vita dell'impresa sono simili a quelli di molte aziende familiari, nel nord-est e non solo. Un magazzino, un macchinario. Poi, attraverso alcuni passaggi chiave, la crescita della dimensione d'impresa, nuovi prodotti e nuovi stabilimenti. Ovviamente all'inizio è andata molto piano, nel senso che abbiamo cominciato in un piccolo capannone, di 380 metri quadri, con una macchina confezionatrice acquistata di seconda mano, però poi da lì si è cominciata a sviluppare subito a livello regionale, poi a livello Nord Italia, poi a livello italiano, poi a livello europeo e adesso a livello mondiale. L'inizio, la cosa importante era incominciare a servire una catena di supermercati e abbiamo incominciato già l'anno successivo, nel 1985. Poi un passaggio è stato di passare da una realtà piccola dove avevamo poco spazio a una realtà più grande e poi ancora più grande. E poi ovviamente incominciare ad andare all'estero. 99-2000 abbiamo cominciato ad andare all'estero sia alla ricerca di nuovi mercati sia anche ad aprire nuovi stabilimenti in varie parti del mondo, uffici commerciali, per cui ci sono stati vari passaggi. Poi ovviamente la ricerca di prodotti, i prodotti nuovi, i nostri precotti, sono stati vari momenti in cui abbiamo accelerato, però diciamo che da quando siamo partiti, ma soprattutto dalla fine degli anni 90 ad adesso, abbiamo avuto una crescita continua e costante, sempre a doppia cifra. Il gruppo oggi è strutturato in due divisioni, una retail, Pedon S.p.A., e una dedicata alla produzione e vendita di commodities agricole all'industria di trasformazione alimentare e conserviera, ACOS S.p.A., ed è presente su diversi canali distributivi, sia con prodotti a proprio marchio, sia come private label per la grande distribuzione con oltre 100 linee. E la crescita di cui ci parla Remo Pedon non si è fermata neppure negli anni della crisi. Che continua anche adesso, noi quest'anno finiremo con più 30% rispetto all'anno scorso. Abbiamo aperto un'ala nuova di stabilimento in Italia, abbiamo aperto uno stabilimento nuovo in Cina, per cui stiamo continuamente in evoluzione. Andare all'estero nel 2000 è stato uno di quei passaggi fondamentali per la crescita dell'azienda. Sede e quartier generale restano a Molvena, in provincia di Vicenza, dove l'azienda è nata e dove sono nati i tre fratelli Pedon e dove si concentra anche l'area ricerca e sviluppo. Poi ci sono stabilimenti all'estero, nelle aree di produzione, ed uno in Cina. Uffici commerciali al Cairo, in Sudafrica e negli Stati Uniti e a Dubai. Noi abbiamo due divisioni, una divisione in cui i nostri clienti sono le catene di supermercati italiane, nazionali, estere, internazionali, e un'altra divisione per quanto riguarda il prodotto sfuso che diamo alle industrie conserviere e alle industrie di surgelazione. Noi siamo andati all'estero non per delocalizzare, ma esattamente il contrario, per aprire nuovi stabilimenti di approvvigionamento delle materie prime. Abbiamo aperto stabilimenti nelle aree di produzione per cui prelevare il prodotto, acquistare il prodotto dagli agricoltori per poi lavorarlo in loco e esportarlo, mandarlo o in Italia o nelle varie parti del mondo. Siamo andati all'estero prima di tutto per questo, successivamente siamo andati all'estero per cercare clienti, per cui abbiamo fatto sia una cosa che l'altra. La rete di approvvigionamento delle materie prime arriva in 10 paesi distribuiti su 5 continenti. E, soprattutto nelle zone più povere del mondo, il rapporto con gli agricoltori locali tocca temi delicati come la sostenibilità economica delle coltivazioni ed in generale il fatto che la presenza dell'impresa sia davvero un volano per tutta l'area coinvolta. Un esempio è quello dell'Etiopia, dove il gruppo Pedon è oggi il primo esportatore di legumi con 30.000 tonnellate all'anno. Ma è cambiata molto sia per quanto riguarda un po' per tutte le famiglie, perché non solamente noi abbiamo 350 dipendenti, però abbiamo creato un indotto ovviamente, no? Perché ovviamente diamo lavoro ai trasportatori che poi portano le nostre merci dalla nostra fabbrica al porto, diamo lavoro a quelli che producono sacchi, diamo lavoro a quelli che producono i pallet, eccetera, eccetera, per cui non abbiamo, poi lavoriamo con 15.000 famiglie di agricoltori nell'area, per cui direi che in quell'area siamo conosciuti molto, molto più che non in Italia, e adesso ci apprezzano, siamo amici, e le barriere sono state buttate giù, c'è un rapporto continuo con gli agricoltori, con i dipendenti, con i bambini a scuola, perché io quando vado ovviamente la prima cosa che faccio vado a scuola a vedere quello che io chiamo i miei bambini. E per cui è una situazione che ci fa particolarmente felici. Alla fine dello scorso anno, il gruppo ha chiuso contratti con Costco, settimo gruppo a livello mondiale e primo cash and carry in USA con circa 70 milioni di associati, con Trader Joe's, tra le catene con il più alto rendimento per superficie, e con Loblaw, la più grande catena di distribuzione in Canada con oltre 1.000 punti vendita. La crescita molto elevata della distribuzione all'estero ha indotto l'azienda veneta a potenziarsi con l'ampliamento dello stabilimento di Molvena e anche a focalizzarsi verso prodotti specifici. All'inizio siamo partiti ovviamente dall'Italia, poi siamo passati all'Europa e da qualche anno siamo presenti in un modo molto importante sia negli Stati Uniti con le catene americane che in Canada, dove soprattutto negli ultimi 4-5 anni abbiamo avuto un grande sviluppo con dei prodotti che facciamo noi innovativi, che sono dei prodotti precotti, per cui abbiamo legumi e cereali che si possono cucinare in 10 minuti. Questo è assolutamente un fast food naturale, perché non contengono conservanti, non contengono coloranti, non contengono anche la tecnologia che noi usiamo, che è nostra, è una nostra tecnologia per fare la precottura, non ha assolutamente nel ciclo produttivo nessuna situazione chimica, per cui è tutto naturale. Ha avuto veramente molto successo in America con il passaggio anche da quelle parti di voler mangiare, di voler avere un cibo più sano e non il tradizionale fast food che tutti conosciamo, cioè l'hamburger e le patatine. Alla guida del gruppo ci sono i tre fratelli Pedon, ma la generazione successiva è già in azienda e guarda anche a Oriente, anche se la sovrapposizione tra esigenze dell'impresa ed affetti familiari a volte comporta sacrifici. Noi attualmente siamo tre fratelli e abbiamo già tre figli che sono all'interno dell'azienda, per cui due sono a Molvena, sono due miei nipoti, uno tra l'altro è già un qualche anno che è in pista, perché è già 13 anni che è in pista, perché ha 40 anni. Poi c'è un altro mio nipote sempre a Molvena, che ne ha 36, e c'è mio figlio che ha studiato e lavora attualmente presso di noi in Cina, per cui nello stabilimento cinese, ha 27 anni e 2 anni che lavora con noi, dopo essersi laureato in economia e commercio internazionale in Cina, in cinese. È stata una scelta che ha fatto lui, è stata una scelta ovviamente che è costata un po' a tutta la famiglia, perché è partito che aveva 19 anni, però sicuramente in prospettiva sta pagando molto, perché lui parla, attualmente sta parlando cinese meglio di come parli l'italiano, è integrato completamente per quanto riguarda mentalità e situazioni cinesi. Da 2 anni è lui che conduce la nostra attività in Cina, pur essendo giovane, però la vita in Cina si moltiplica, lui spesso e volentieri si rammarica di avere solamente 27 anni, perché dicono forse sono poco credibile, però come esperienza ne ha molta di più, perché ovviamente è molti anni che è fuori casa. E le prospettive per i prossimi anni sono di crescita, con la conquista di nuovi mercati, una base che resta in Italia, la ricerca di nuovi prodotti. Le prospettive per i nostri 2-3 anni sono ancora di più, di essere ancora più presenti nelle varie parti del mondo. Abbiamo questo progetto per quanto riguarda India e Cina, e poi ovviamente in Italia e in Europa ancora di più una nostra presenza per quanto riguarda quote di mercato, e ovviamente ritornando alla ricerca e sviluppo, ricercare prodotti nuovi per il mercato nazionale ma per il mercato globale. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.